Avventurieri, per assemblare la struttura della zattera vi serve una colla potente, stabile e resistente all'acqua. Druido, nel tuo libro degli incantesimi naturali trovi delle istruzioni parziali per ricrearla. Sapete che la colla può funzionare solo se contiene carbonio e ossigeno. Ma a piedi pagina trovate delle note importanti. Se la formula contiene azoto, diventa instabile e può disgregarsi in pochi minuti. Se invece contiene cloro, può diventare tossica e corrosiva. Quale delle seguenti formule dovete scegliere per creare la colla magica? Numero 1. C10H16O. Numero 2. C8H6Cl2O. Numero 3. C8H6Cl2O.